Gli Irrinunciabili per RadioBigWar.com presenta Grosso Guai a Chinatown, un film di John Carpenter. Certi film nascono cult, altri lo diventano. Grosso Guai a Chinatown fa parte di questa seconda categoria. Spesso il percorso che ti porta a diventare una leggenda è impervio e ricco di insidie. Infatti nel lontano 1986 fu un mega flop al botteghino e fu stroncato anche dalla critica. Poveri stolti, non sapevano cosa stavano facendo. Anche per questo motivo Carpenter si promise di non lavorare mai più con gli studios di Hollywood. Premesse devastanti. Grazie però al mercato home video e al passaparola la fama di questo piccolo grande film cominciò lentamente ad aumentare. Anno dopo anno si infiltrava nell'immaginario di milioni di giovani, insegnandogli cosa è veramente fico e cosa vuol dire fare un film senza compromessi. Questa è la differenza che passa tra un effimero successo al botteghino, che dura solo una stagione, rispetto ad un film che è pura leggenda e che lo sarà per sempre. È il classico film che quando c'è in TV lo guardiamo, sempre, conosciamo anche le battute, e le recitiamo con i nostri amici e ci divertono in continuazione. Ma perché un film del genere, che inizialmente è stato stroncato da tutti, ha avuto la sua rivincita? I motivi sono tanti. Innanzitutto, Carpenter è un genio. E se non è un genio, ma comunque lo è un regista che si spinge fin dove è possibile, fregandosene delle conseguenze. Il contesto del film è fantastico. È un mondo sommerso pieno di magie, mostri e tonnellate di stereotipi orientali che lo rendono affascinante. È come avventurarsi in un tempio antico di un paese esotico. I personaggi sono tutti ipercaratterizzati. Pensiamo alle tre bufere, tuono, pioggia e fulmine. Sono tre super cinesi dai poteri improbabili, per non parlare delle gang di Chinatown come i signori della morte. E poi l'inferno degli scorticati vivi, vi dice qualcosa? I combattimenti a colpi di arti marziali sono incredibili. Le normali leggi della fisica non esistono. Altro che Matrix. E ben prima di Matrix. È tutto fantastico, è tutto pieno di stile. Gli effetti speciali sono grossolani, ma rendono il film ancora più gustoso. È come se fosse l'ultimo numero di quel fumetto che da ragazzini bravavamo tanto. Ovviamente, in tutto questo calderone abbiamo anche un cattivo all'altezza della situazione. Le Pen. È un vecchio decrepito, condannato ad essere un demone da una maledizione, e vuole dominare l'universo direttamente da Chinatown. Applausi per l'opera. L'anima della pellicola è comunque, senza ombra di dubbio, il mitico Jack Burton. La sua presenza troneggia. È la versione grottesca e sfigata degli eroi americani, di fondazione. Lui non ha vere abilità, non è bravo con i pugni, non ha una gran mira con le armi, e non è neanche particolarmente coraggioso. Inoltre sostiene delle cose che semplicemente non può sostenere. È un paracuro. La sua arma migliore è la sua faccia di bronzo, e la sua sagacia, che tira fuori con frasi d'effetto, in particolare quando si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. E noi per tutto questo lo amiamo. E probabilmente lo vorremmo come amico, per andare al pub. Oppure io penso che ci saprebbe tirarci su nei momenti più tristi, ne sono sicuro. Il suo amico cinese che lo accompagna invece è praticamente l'opposto di lui. È più elegante, è coraggioso e deve salvare la sua ragazza, mentre Jack invece deve recuperare solo il suo camion. Sì, ma tanto noi siamo tutti per Jack Burton, non ce ne frega niente del suo amico cinese e della sua ragazza. E non ci interessa neanche che puzzi, sì, perché Jack puzza. Glielo fa notare una stupenda Kim Cattrall all'inizio del film, quando Jack, vecchio marpione, cerca di abbordarla. Mitico. Kurt Russell, io penso che sia un grande attore, ed è curioso come abbia interpretato per Carpenter due anti-eroi completamente differenti: Jenna Plinsky, cinico nichilista in Fuga da New York, e Jack Burton, cialtrone e divertente. Carpenter ha creato parecchie perle, ma Grosso Guai a Chinatown rimane il mio preferito. È pazzesca la cura dei particolari, ci sono tantissimi accorgimenti, pare che niente sia stato lasciato a caso. Pensiamo al saluto speciale dei guerrieri che fanno tra di loro, oppure al fantastico combattimento tra Ropen ed Elshene, dove sembrano mimare l'utilizzo di un pad per videogiochi. Le potenti suggestioni del cinema passano anche per queste accortezze, e Carpenter lo sa bene nei suoi film. Ovviamente le musiche sono fantastiche, create, come spesso succede, dallo stesso Carpenter, grazie alla sua maestria nell'utilizzo dei sintetizzatori. Alla fine di tutta questa avventura penso che siamo stati fortunati a crescere con i consigli del vecchio Jack Burton, perché sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti, come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Burton, quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Burton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: meno il tuo colpo più duro, amico, non mi fai paura. Grande Jack, buona visione.